Ad alta voce, Peppino Mazzotta legge La linea d'ombra di Joseph Conrad. Nella saletta mi accolse la voce del dottore e dalla voce seguì la sua ampia figura, uscendo dalla cabina vuota di dritta dove si teneva la cassetta farmaceutica di bordo, saldamente assicurata sulla cuccetta. Non trovandomi a bordo, era entrato lì, disse, a ispezionare la scorta di medicinali, bende, eccetera. Tutto era al completo e in regola. Lo ringraziai. Avevo appunto pensato di chiederglielo, poiché tra un paio di giorni, come sapeva, saremmo usciti in mare, dove finalmente sarebbero cessati tutti i nostri guai. Ascoltò gravemente e non rispose nulla. Ma quando gli esposi il mio pensiero a proposito del signor Burns, egli si sedette al mio fianco e, posandomi amichevolmente la mano sul ginocchio, mi pregò di riflettere bene a che cosa mi esponevo. L'uomo aveva forze sufficienti ad essere trasportato, e niente di più, ma non avrebbe retto a un nuovo attacco di febbre. Avevo dinanzi a me una traversata di una sessantina di giorni, forse, che cominciava con navigazione difficile e sarebbe finita probabilmente con un bel po' di cattivo tempo. Potevo correre il rischio di affrontarla da solo, senza primo ufficiale e con un secondo ufficiale che era quasi un ragazzo. Avrebbe anche potuto aggiungere che era il mio primo comando. Probabilmente ci pensò, perché si interruppe. Io l'avevo bene in mente. Mi consigliò seriamente di telegrafare a Singapore per avere un primo ufficiale, anche se dovevo ritardare la partenza di una settimana. Neanche un giorno, dissi. Il solo pensiero mi dava i brividi. Gli uomini sembravano in forma, tutti, ed era il momento di farli andare via di là. Una volta in mare non avevo timore di affrontare qualsiasi cosa. Il mare era adesso l'unico rimedio a tutti i miei fastidi. Gli occhiali del dottore mi stavano puntati addosso come due fanali che frugassero l'autenticità della mia risolutezza. Aprì le labbra come a discutere ancora, ma le richiuse, senza dire nulla. Mi si presentò allora così vivida l'immagine del povero Burns, esausto, inerme, angosciato, che ne fui commosso più della realtà lasciata soltanto un'ora prima. Mi si mostrava spogliata dei lati negativi della persona e non potevo resistervi. «Sentite», dissi, «a meno che mi dichiariate ufficialmente che egli non è trasportabile, farò tutto quello che è necessario per farlo trasportare a bordo domani e porterò la nave fuori del fiume la mattina seguente. Anche se dovrò stare un paio di giorni all'ancora fuori dalla barra prima che la nave sia pronta alla partenza». «Oh, farò io stesso tutto quello che è necessario», disse subito il dottore. «Ho parlato così per amicizia, per il vostro bene ed altre cose del genere». Si alzò in piedi, con la sua composta semplicità, e mi diede una calorosa stretta di mano, con una certa solennità, pensai. Però mantenne la parola. Quando il signor Burns apparve sul barcarizzo trasportato in barella, gli camminava accanto il dottore in persona. Il programma era stato modificato solo in quanto s'era rimandato il trasporto all'ultimo momento, la mattina stessa della partenza. Fu appena un'ora dopo il levar del sole. Il dottore dalla riva agitò il braccio in segno di saluto e tornò subito al suo calesse che lo aveva seguito vuoto fino al fiume. Il signor Burns, mentre lo portavano attraverso il cassero, appariva del tutto inanimato. Ransom scese a basso a sistemarlo nella sua cabina. Io dovevo restare sul ponte, a badare alla nave, perché il rimorchiatore aveva già preso il nostro cavo di rimorchio. Lo scroscio degli ormeggi mollati in acqua produsse un completo mutamento dei miei sentimenti. Era come il parziale senso di sollievo al risveglio da un incubo. Ma quando la prua della nave deviò giù per il fiume, via da quella squallida città orientale, mancai di provare l'ebbrezza che mi aspettavo da quel momento tanto agoniato. Ci fu invece, senza dubbio, un rilassamento di tensione che si produsse in un senso di stanchezza dopo una battaglia ingloriosa. Verso mezzogiorno ancorammo ad un miglio fuori della barra. Fu un pomeriggio molto affaccendato per tutto l'equipaggio. Osservando il lavoro dal casseretto, dove rimasi in continuazione, vi scorsi traccia della fiacchezza di 6 settimane trascorse nella soffocante calura del fiume. La prima brezza l'avrebbe spazzata via. Al momento era calma piatta. Giudicai che il secondo ufficiale, uno sbarbatello con una faccia che non prometteva granché, non era, a dirla blandamente, della stoffa di cui è fatto il braccio destro di un comandante. Ma fui felice di cogliere lungo il ponte principale qualche sorriso su quelle facce di marinai che non avevo ancora avuto il tempo di guardare bene. Svincolato dalla mortale stretta delle incombenze a terra, mi sentivo con loro in famiglia eppure un po' forestiero, come uno che rientri a casa dopo molto peregrinare. Ransom faceva la spola continuamente tra cucina e alloggio. Era un piacere vederlo. Costui possedeva decisamente una grazia innata. Unico tra tutto l'equipaggio, non aveva fatto un solo giorno di malattia in porto. Ma consapevole di quel cuore malfermo nel suo petto, riuscivo a scorgere la moderazione che egli imponeva all'agilità spontanea, marinaresca, dei suoi movimenti. Era come se avesse da portare sulla propria persona qualcosa di molto fragile o di molto esplosivo e ne fosse perennemente consapevole. Ebbi occasione di rivolgergli la parola 1 o 2 volte. Mi rispose con la sua voce piacevole e quieta e con un lieve sorriso un po' pensoso. Il signor Burns pareva riposare, sembrava messo comodo. Dopo il tramonto salì nuovamente sul ponte, trovandovi solo un vuoto silenzioso. La sottile, informe crosta della riva non si distingueva più. Intorno alla nave erano salite le tenebre, come una misteriosa emanazione delle acque mute e solitarie. Mi appoggiai alla battagliola e tesi l'orecchio alle ombre della notte. Non un solo suono. La mia nave poteva anche essere un pianeta in vertiginoso volo lungo l'orbita prefissata in uno spazio di infinito silenzio. Mi afferrai alla battagliola come se per davvero mi abbandonasse il senso dell'equilibrio. Che assurdità! Chiamai nervosamente. «In coperta! Oei!» L'immediata risposta «Sì, capitano!» ruppe il sortileggio. L'uomo in servizio di porto salì di corsa la scaletta del casseretto. Gli dissi di segnalarmi subito il minimo accenno di brezza. Andando da basso, gettai un'occhiata al signor Burns. In effetti, non potevo evitare di vederlo perché la sua porta era spalancata. Era tanto dimagrito che in quella cabina bianca, sotto un lenzuolo bianco e con la testa rimpicciolita che affondava nel cuscino bianco, solo i suoi baffi rossi colpivano l'occhio, come una cosa artificiale, un paio di baffi finti messi in mostra lì alla luce cruda e senza ombre della lampada alla paratia. Mentre stavo a fissarlo con una specie di stupore, egli diede segno di vita aprendo gli occhi e girandoli verso di me, un movimento impercettibile. «Calma piatta, signor Burns», dissi rassegnato. Con una voce distinta, che non ci si sarebbe aspettato, il signor Burns iniziò uno sconnesso discorso. Il timbro di voce era molto strano, non già alterato dalla malattia, ma come se fosse d'altra natura. Una voce non terrena, Quanto all'argomento, mi sembrò di capire che tutto ciò era colpa del vecchio, il defunto capitano, in agguato là in fondo al mare con intenzioni malvagie. Una storia fantastica. Ascoltai fino all'ultimo. Poi entrai nella cabina e misi la mano sulla fronte del secondo. Era fresca. Vaneggiava solo per estrema debolezza. All'improvviso parve rendersi conto della mia presenza. E con la sua voce vera, naturalmente molto debole, chiese con rammarico: «Nessuna possibilità di farla muovere, capitano?» «A quale scopo lasciare la fonda solo per andare in deriva, signor Burns?» risposi. Sospirò e lo lasciai alla sua immobilità. Il filo che lo attaccava alla vita era sottile quanto quello che lo attaccava alla ragione. Ero oppresso dalle responsabilità che dovevo affrontare da solo. Andai in cabina per cercare ristoro in qualche ora di sonno, ma quasi prima che chiudessi occhio, il marinaio sul ponte venne a basso a dire che c'era una brezza leggera. «Abbastanza per muoversi», disse. Ed era infatti appena abbastanza. Ordinai di armare il molinello, mollare le vele e bordare le gabbie. Ma nel tempo occorrente ad abbattere la nave, già non sentivo quasi più una bava di vento. Orientai ugualmente i pennoni e misi tutta la velatura fuori. Non volevo rinunciare a quel tentativo. La mia nave, con l'ancora caponata e invelata fino alle gallette, stava ferma, come un modellino di veliero posato sulle marezzature di un marmo levigato. Impossibile distinguere la terra dall'acqua nell'enigmatica stasi delle immense forze del mondo. Fui preso da subitanea impazienza. «Non governa?» chiesi con irritazione al marinaio, le cui forti mani scure che impugnavano le caviglie della ruota spiccavano illuminate nel buio, simili a un simbolo dell'umanità che rivendica il governo della propria sorte. Mi rispose: «Sì, signore, viene al vento adagio. Metti la prua a sud». «Sì, sì, capitano». Camminai su e giù per il casseretto. L'unico rumore fu quello dei miei passi finché l'uomo parlò ancora. «Prua a sud adesso, capitano!» Mi sentii la gola leggermente stretta prima di annunciare la prima rotta del mio primo comando alla notte silenziosa, rorida e scintillante di stelle. C'era qualcosa di definitivo in quell'atto che mi votava all'interminabile vigilanza del mio compito solitario. «Alla via!» dissi infine. «La rotta è per sud». «Sud, capitano», fece eco l'uomo. Mandai a basso il secondo ufficiale e la sua guardia e rimasi di servizio io a percorrere la coperta durante le ore fresche e sonnolente che precedono l'alba. Una bava di vento andava e veniva e ogni volta che era forte abbastanza per destare l'acqua nera, il mormorio lungo i bordi mi scorreva proprio nel cuore come un delicato crescendo di gioia e rapidamente svaniva. Ero tremendamente stanco. Le stelle parevano anch'esse spossate dall'attesa dell'aurora. Questa venne, infine, con una lucentezza di madreperla allo zenith, quale non avevo mai vista prima ai tropici, priva di incandescenza, quasi grigia, con una strana reminiscenza di più alte latitudini. La voce della vedetta gridò dall'avanti: «Terra da prua a sinistra, capitano!» Bene. Appoggiato alla battagliola, non alzai nemmeno gli occhi. Il movimento della nave era impercettibile. Venne Ransom a portarmi il caffè del mattino. Dopo averlo bevuto, guardai avanti e nella immobile striscia brillante e luminosa di un pallido arancione scorsi la terra profilarsi piatta come ritagliata nella carta nera e pareva galleggiare sull'acqua, leggera come un sughero. Ma il sole, che saliva, la tramutò in semplice vapore scuro, ombra incerta, compatta, tremolante nel rovente riverbero. La guardia finì il lavaggio dei ponti. Scesi a basso e mi fermai davanti alla porta del signor Burns. Non gradiva che fosse chiusa, ma esitai a parlargli finché non mosse gli occhi. Gli diedi la notizia. Avvistato Capo Liant all'alba, circa 15 miglia. Mosse le labbra, ma non mi giunse suono se non quando, avvicinato l'orecchio, colsi l'irritante commento: «Questo vuol dire trascinarsi. Siamo sfortunati». «Sempre meglio comunque che stare fermi», osservai rassegnato, e lo lasciai a tutti i pensieri e le manie che lo ossessionavano nella sua disperata prostrazione. Più tardi, quella mattina, quando il mio secondo ufficiale venne a rilevarmi, mi gettai in cuccetta e per circa 3 ore dimenticai tutto. A tal punto che svegliandomi mi chiesi dove fossi. Poi, ecco l'immenso sollievo del pensiero, a bordo della mia nave. In mare, in mare. Attraverso i portellini ebbi la vista di un orizzonte liscio su cui picchiava il sole, orizzonte di un giorno senza vento. Ma la sua sola ampiezza bastò a darmi un senso di fuga riuscita, una momentanea ebbrezza di libertà.